10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buonasera e benvenuti, bentrovati messeri e madame a questa nuova puntata di Radio Noise. Io spero che abbiate passato un buonissimo weekend, spero che abbiate passato un buonissimo primo maggio, spero che vi siate divertiti. E a tal proposito volevo salutare chi ci sta ascoltando anche dall'ospedale, niente di grave, non vi preoccupate, però speriamo insomma di riuscire a fargli passare un paio d'ore in compagnia, in buona compagnia. E quindi saluto Gianmario che ci sta ascoltando in orizzontale. E questa è la quarta puntata di Radio Noise e questa sera parleremo di un genere molto molto importante, perché Radio Noise si occupa soprattutto degli anni 90 e un genere fondamentale degli anni 90 è stato il grunge, che significa letteralmente sporco. Quindi preparatevi camicie di flanella, scarponi, jeans strappati, capelli lunghi, insomma dovete rientrare negli anni 90 a far finta, pensare e comportarvi come se fosse negli anni 90, perché altrimenti non riuscite a capire bene quell'anno, quegli anni e quella decade. Quindi partiamo in realtà dal 1988, che poi è stato diciamo l'inizio dell'epoca grunge, che ha segnato veramente è stato fondamentale per gli anni 90, perché ha creato veramente deliri, fan, altri gruppi, ispirazioni varie, cioè tutto quanto. Il grunge è il nuovo, diciamo, come se fossero gli anni 70, insomma qualcosa veramente di forte e importante. Quindi però partiamo qualche anno prima, 2 anni prima, 1988, loro sono Mad Honey, Touch Me I'm Sick, e vai! Touch me out! Madonna, Touch Me and Sick 1988, e Madonna sono uno dei primi, se non il primo gruppo importante che ha dato vita poi al grunge, tant'è che il termine grunge si dice sia stato coniato da Mark Arm, cioè che è il cantante dei Madonna, durante un loro tour in Inghilterra. Grunge significa sporco, come ho detto prima, letteralmente grungy. E il 1988 quindi segna l'inizio appunto di questo genere musicale, che ha portato poi una serie di innovazioni e anche di grandi cambiamenti a livello mainstream, insomma, quindi è stato un genere fondamentale. 1988 i Madonna nascono dalle ceneri dei Green River, che vedevano due componenti di Madonna e altri due componenti dei Pearl Jam, che poi furono un gruppo diventò di punta appunto del genere grunge. Erano Stone Gossard e Jeff Ament, per la precisione. Touch Me and Sick in questo caso è il primo singolo di debutto dei Madonna, nonché singolo di debutto della Sub Pop, che è l'etichetta indipendente che portò, diciamo, una serie, quindi la maggior parte dei gruppi grunge, quindi li portò davanti al pubblico e li fece conoscere al pubblico. Tant'è che la Sub Pop, tra l'altro, è stata un'etichetta che fu formata sotto consiglio di Kim Thayil, che era il chitarrista di Soundgarden, altro gruppo fondamentale del grunge, e gli consigliò appunto di mettere in piedi questa etichetta perché doveva produrre il primo lavoro di Soundgarden sotto il nome Soundgarden, perché all'inizio Soundgarden si chiamavano The Shams. Ma comunque, Touch Me and Sick, quindi primo album 1988 prodotto da Jack Endino, che poi vedremo è uno delle persone più importanti, dei produttori più importanti dell'epoca grunge. Jack Endino, abbiamo poi Butch Vig, per chi non lo sapesse, che poi è il chitarrista dei Garbage, gruppo Britpop, pop rock, insomma. E poi anche Steve Albini, fondamentale, altro Steve Albini. Touch Me and Sick parla di, in sostanza il testo è un testo sarcastico sul problema della violenza sessuale e della malattia, quindi dei mattacchioni di Madonna. Touch Me and Sick è anche inserito in un libro scritto da Tom Reynolds, che si chiama The 52 Creepiest Love Songs You Ever Had, che è il sequel di I Hate Myself, I Want to Die, The 52 Most Depressive Songs You Have Ever Had. Speriamo che l'inglese sia stato buono, se non è stato buono non fa niente, non mi interessa e non ci interessa. Siete in ascolto sempre di Radio Noise, www.transizionedifase.org, Radio Noise che parla della musica degli anni 90, e stasera parliamo di grunge. E ascoltiamo un altro pezzo, sempre dei Madonna. E siamo sempre in quel periodo, sostanzialmente, anzi no, siamo nel 1992, perché questa è Suck You Dry da Piece of Cake. Loro sono sempre i Madonna e voi siete sempre su Radio Noise. We'll be right back. Loro erano i Madonna, sempre con Suck You Dry, da Piece of Cake del 1992. E qui cambia un po' la storia anche per quanto riguarda la produzione, perché Suck You Dry, Piece of Cake del 1992 viene prodotto dalla Reprise Records, che è una casa discografica fondata nel 1960 da Frank Sinatra, The Voice. Quindi questi collegamenti un po' parecchio assurdi, che comunque è sotto la Warner Music Group, sotto la Warner Records, che poi fu una delle major che andò a produrre una serie di, che si interessò comunque ai gruppi grunge in generale, a tutti quanti i gruppi grunge. E quindi, dicevamo prima, i Madonna sono il primo gruppo definito grunge, o meno, o meglio, che ha coniato il termine grunge. E il grunge, diciamo, fondamentalmente come genere, la cosa fondamentale era che si fondava su una quasi inesistenza di tecnica musicale, per quanto riguarda di tecnica come approccio sullo strumento, tant'è che Bruce Pavitt, che fu uno dei cofondatori della Sub Pop, cioè l'etichetta discografica che portò quindi in auge una serie di la maggior parte dei gruppi grunge, che nacque prima come fanzine, e mise in mano in sostanza a Mark Hermel, al cantante Madonna, mise in mano la chitarra, perché era anche chitarrista, sostenendo comunque Mark Arm, contando che Mark Hermel comunque non sapeva suonare tutte se le corde, ma ne sapeva suonare soltanto tre, quindi voglio dire, era abbastanza particolare. Quindi grunge, il termine sporco, veniva utilizzato in tutti quanti gli ambiti e anche nel suono. Importante, i Madonna utilizzavano questo pedale che dava molta più distorsione, il Big Muff, il pedale Big Muff, che dava molto più distorsione e un suono molto più sporco alla chitarra, quindi per aumentare di più questo sporcizio, questo schifo, questa cosa proprio terribile, come dicono a Roma. Ma detto questo, vi ricordo subito un paio di contatti prima di passare al prossimo gruppo. RadioNoize@hotmail.it per raggiungere il contatto MSN, e RadioNoize010@gmail.com per scrivere le email. Siete sempre su Transizioni di Fase, www.transizionidifase.org, se volete segnalare, inviare segnalazioni a Transizioni di Fase, info@transizionidifase.org. Molto semplice, molto diretto. E da un gruppo di schifosi, di grangettoni, passiamo all'altro gruppo molto importante che, vabbè, ne parliamo dopo, perché insomma, e qua di boscaiolo c'è tutto. Il cantante era un macellaio, io vi dico soltanto questo: grossi, puzzolenti, con i camicioni, quelli a quadri di flanella, gli scarponi, insomma, boscaioli, macellai, boscaioli, di tutto e di più. Loro sono i Tad, Jinx. We'll be right back. Loro erano i Tad con Jinx da Eight Way Santa del 1991, prodotto dalla Sub Pop sotto l'etichetta discografica Sub Pop, ma prodotto da Butch Vig, come dicevo prima, uno dei personaggi importanti come produttori per quanto riguarda l'epoca grunge. E il disco Eight Way Santa, piano con l'inglese e attenzione, perché sennò d'ora in poi si passerà solo musica italiana, eh? Se qua si sbaglia, bacchettatemi. La cover originale di questo disco, perché i Tad anche loro erano dei mattacchioni, l'originale ritraeva un uomo e una donna seminudi, ed era una foto che era stata alterata, che era stata trovata in un album di fotografie in un negozio di Seattle, e per questo ovviamente ebbero dei problemi legali, chiaramente. Le persone appunto che si trovarono, i due soggetti che trovarono loro stessi in un disco che veniva pubblicato e esportato, insomma, chiaramente non furono molto contenti di questa cosa. Jinx è il primo pezzo del disco Eight Way Santa, appunto della rock band, diciamo rock band Tad, che però si discostano. Siamo ancora loro si sono formati alla fine degli anni 80 e si rifanno molto di più però a band, diciamo, degli anni 70, più hard rock in un certo senso. E anche perché, diciamo, il genere grunge effettivamente non è definibile per quanto riguarda lo stile musicale, perché infatti molti sul grunge non sono, diciamo, parlano di grunge semplicemente come un'accozzaglia di gruppi con stili completamente differenti. Addirittura sono stati creati, diciamo, in dottrina sono stati creati dei generi, dei sottogruppi che fanno riferimento all'heavy metal piuttosto che al punk, all'hardcore oppure all'hard rock. Quindi diciamo che effettivamente fu più che altro forse una moda, qualcosa di questo genere piuttosto che uno stile musicale, però comunque sta di fatto che, insomma, creò veramente un gran casino, un gran delirio. E ovviamente è chiaro che insieme alla musica, per portare avanti questo stile e per aumentare anche commercialmente l'interesse a questo stile, fu prodotto un film che si chiama Singles di Cameron Crowe. Per chi non lo conoscesse, per esempio, faccio un esempio: un film prodotto da Cameron Crowe e Jerry Maguire oppure Elizabeth Town, giusto per intenderci. E all'interno appunto di questa, della colonna sonora, della soundtrack di Singles, dove presenziano anche una serie di personaggi di quell'epoca, da Chris Cornell dei Soundgarden piuttosto che gli Alice in Chains, insomma tutti i gruppi che facevano parte di quel periodo. E aumentò tutto quanto il movimento grunge, tutto quanto l'interesse verso il grunge. I Tad, dicevo prima che erano capitanati dal possente ex macellaio Tad Doyle di 136 kg di peso, quindi una cosa molto molto molto leggera, e realizzarono il loro primo album nel 1989, che si chiamò God's Balls. In realtà questo album, Eight Way Santa, diciamo che è tra i più leggeri dei Tad, perché loro erano molto più grossi, più pesanti, più grezzi. E a proposito, visto che Radio Noise non è soltanto musica ma anche cultura, io vi spiego Jinx che cos'è. Jinx fa riferimento a superstizioni popolari e viene dal latino Inx, che si riferisce a un tipo di uccello della specie dei torticollis, cioè i picchi in sostanza. E praticamente si dice che appunto questi uccelli erano utilizzati nelle magie, insomma, utilizzati per le magie, e poi era in particolare il fatto che appunto giravano la testa di 180 gradi. Quindi vi spiego anche perché Jinx da qui, quindi utilizzato come termine, diciamo, negativo in un certo senso, quindi nella cultura, infilato nella cultura della superstizione. Ma detto questo, noi ci ascoltiamo il prossimo pezzo, sempre dei TAD, dello stesso album, At Way Santa, che si chiama Jack Pepsi. E anche per questo per questo brano hanno avuto dei problemi, perché sono sempre dei mattacchioni. Help Me Jack Pepsi, cantava Ted Doyle, e il brano parla dei grandi due amici Jack Daniels e Pepsi Cola, che si uniscono e creano delle atmosfere surreali e divertenti a volte, e molto interessanti. E anche per questo loro, come dicevo prima, hanno avuto dei problemi perché utilizzarono il logo della Pepsi, ma perché sono dei mattacchioni. Anche i TAD erano dei mattacchioni, fondamentalmente erano dei simpatici fresconi che utilizzavano la chitarra, e salta anche il microfono e ci sta tutto, che utilizzavano la chitarra e cantavano degli stornelli molto interessanti. Radio Noise, siete sempre su Transizione di Fase, www.transizionedifase.org. ogni tanto partono le pubblicità, perché è fondamentale ricordare gli argomenti fissi, importanti e fondamentali. E va bene, basta. Passiamo a un gruppo che è diventato importante e ha continuato nel tempo, perché poi, diciamo, Madonna e TAD in realtà non hanno avuto questa grande fortuna nel corso degli anni. E fanno parte, diciamo, di quella schiera dei gruppi grunge che sono rimasti, diciamo, in un certo senso di nicchia, ma che hanno aiutato o sono stati aiutati dai gruppi più importanti che poi sono finiti nel mainstream. Perché soprattutto i TAD e Madonna hanno avuto delle produzioni un po' maggiori, diciamo, in numero di copie, però i TAD, ad esempio, non hanno avuto quindi una grande visibilità, però ci sta tutto, perché ci sono anche quei gruppi che dal basso, rimanendo in basso, diciamo, se basso si può chiamare, anche se è un termine un po' dispregiativo che non mi piace, però per rendere l'idea, dal basso aiutano gli altri gruppi ad uscire fuori. E quindi uno dei gruppi del mainstream, sono infiniti nel mainstream, loro sono gli Alice in Chains e questo è Man in the Box. Yeah. Man on the box, il contatto fa ancora contatto il microfono, quindi bisogna stare attenti. Dicevo, Alice in Chains, Man in the Box. Alice in Chains è un gruppo mainstream, soprattutto sotto Columbia Records, cui si mischiano queste sonorità tra la voce particolare, un po' gutturale, anche un po' nasale, che si mischia bene con il fraseggio della chitarra di Jerry Cantrell. Cerco di dare un accento un poco più importante. Gli Alice in Chains si formarono molto prima, perché qua siamo nel 1990, si formarono qualche anno prima grazie a Layne Staley, cioè il cantante, che poi fu uno di quelli che ci lasciò prematuramente. Infatti gli Alice in Chains continuano a produrre dischi, ne hanno prodotto uno qualche tempo fa, però non ha certo lo stesso sapore che poteva avere con la voce di Layne Staley, che formò gli Alice in Chains nel 1986 con la Z, che era una band heavy metal. E questo si riallaccia al discorso, appunto, che facevo all'inizio sul grunge, che può essere identificato più come una moda che come un genere musicale uniforme, perché come abbiamo visto già in tre gruppi ci sono delle differenze abissali. Gli Alice in Chains si rifanno molto al heavy metal, più o meno, diciamo, rispetto a i Madonna e i Tad, che si rifanno a un Madonna, diciamo, a un punk in un certo senso, mentre i Tad sono un poco più anni 70, quindi Black Sabbath, diciamo, quelle atmosfere lente e cupe del Black Sabbath, che poi cupi erano anche gli Alice in Chains, ma lo dimostravano in maniera diversa. Man in the Box del 1990 con l'uscita di Facelift, e divenne una delle hit importanti, che poi fu una delle hit inaspettate che poi li portò a diventare uno dei gruppi di punta di quel periodo, appunto, del genere grunge. E Man in the Box parla, appunto, della censura dei mass media, tant'è che poi Layne Staley dichiarò di averlo scritto il testo in una serata in cui era abbastanza stoned, in cui era abbastanza fatto, perché Layne Staley comunque alliccava, detto in termini tecnici, e era contro la censura dei mass media, tant'è che quando andò in rotazione su MTV la parola shit fu censurata con prima pit e poi spit, quindi cascava a fagiolo. E grazie a Facelift loro fecero un tour importantissimo con Van Halen, con i Van Halen e con Iggy Pop, quindi voglio dire, mica bruscolini, quindi cose importanti. Nel 1992 poi uscì una piccola raccolta acustica che si chiamava Sap, che all'interno conteneva l'unica apparizione del nome Alice Mudgarden, che era l'unione tra Mark Erm dei Madonei, che abbiamo ascoltato prima, e Garden, appunto, di Chris Cornell dei Soundgarden, altro gruppo importantissimo della scena grunge. E anche loro, i Soundgarden, si rifacevano a un altro genere, diciamo, hard rock, ma anche loro in realtà si rifacevano ai Black Sabbath, in sostanza. Però detto questo, noi passiamo al prossimo pezzo, ci ascoltiamo sempre gli Alice in Chains. Siamo in questo caso nel 1992, questo è un altro singolo importantissimo, che divenne anche questa una hit molto forte e ascoltata, tant'è che fu inserita anche nel film di cui parlavamo prima, di Russell Crowe, Singles. Loro sono sempre gli Alice in Chains e questa è Wood, col punto interrogativo finale. Yeah. Dirt del 1992, questa era Wold, sempre gli Alice in Chains, che sono formati come le migliori favole vogliono. Lance li incontrò in un locale, Jerry Cantrell, il chitarrista degli Alice in Chains, si innamorarono perdutamente e unirono il gruppo. In realtà all'inizio fu messo in piedi un gruppo funk, e praticamente Jerry Cantrell, cioè Lance Staley, chiese a Jerry Cantrell di entrare a far parte di questo gruppo funk, e il chitarrista avrebbe accettato a patto che Staley fosse entrato nel gruppo di Jerry Cantrell, dove militavano il batterista Sean Kinney, e il bassista Mike Starr. Quindi poi si sono uniti, il gruppo funk è andato a quell'altro mondo, e poi gli Alice in Chains sono diventati gli Alice in Chains. E abbiamo ascoltato quindi Wold, tratto da Dirt, che è il disco, diciamo, che li ha portati proprio poi al successo, il terzo disco dopo Facelift e poi la piccola raccolta acustica che era Sap, di cui abbiamo parlato prima. E non era previsto in scaletta, però lo voglio inserire, e quindi adesso ci ascoltiamo il pezzo omonimo del disco, che è ancora più cupo e rappresenta veramente in pieno le sonorità cupe di questo disco, che parlano anche di dipendenza in generale, tant'è che poi questi testi creati, insomma, e scritti alimentarono un po' di dubbi sulla seria dipendenza da eroina di Lance Staley, che effettivamente non erano soltanto dei dubbi e delle voci di corridoio. Alice in Chains, Dirt, qua chiudete gli occhi e alzate il volume. Tra Talkbox e Wawa, Jerry Cantrell costruiva questi riff abbastanza ipnotici e psichedelici. È una delle componenti, delle caratteristiche dei gruppi grunge, di alcuni dei gruppi grunge, o quantomeno dei gruppi degli anni 90, degli Alice in Chains, i gruppi che si rifacevano in un certo senso anche all'heavy metal, quindi distanti da Madonna, i Tad e altri gruppi che poi andremo ad ascoltare dopo. Abbiamo ascoltato Dirt, che è sempre tratto dall'album Dirt del 1992. Alice in Chains, quindi gruppo seminale, gruppo fondamentale, che tra l'altro erano, questo è per far notare ancora di più le differenze che c'erano tra i vari gruppi dell'epoca grunge, gli Alice in Chains erano molto amici di gruppi molto più pesanti, gruppi trash tipo Pantera per esempio, tant'è che ci sono vari live in cui, perché loro fecero dei tour insieme ad esempio ai Pantera, ci sono vari live in cui Phil Anselmo, il cantante, va a cantare con gli Alice in Chains e viceversa. Questo era l'anima un po' più heavy metal, perché ripeto, gli Alice in Chains nascono come gruppo speed metal. Lane Staley disse addirittura, disse che appunto gli Alice in Chains, come erano, si chiamavano all'inizio, erano un gruppo di travestiti che suonavano power metal, quindi. E da un gruppo heavy metal ne passiamo ad un altro molto duro, sporco e aggressivo, e anche loro sono molto hard rock, si rifanno molto diciamo all'heavy metal, si rifanno molto soprattutto ai Black Sabbath. Siamo nel 1989, loro sono i Soundgarden e questa è Gun. I Soundgarden con Gun, tratto da Lover the Love del 1989 sotto AM Records. I Soundgarden nascono ufficialmente nel 1984 e vedevano alla batteria e voce il cantante, che poi divenne soltanto cantante, Chris Cornell, il bassista Yamamoto e poi Kim Thayil che suonava il basso. Kim Thayil poi divenne il chitarrista. In questo brano c'è già la formazione cambiata, per cui c'è Kim Thayil, passa la chitarra, Chris Cornell diventa soltanto cantante. Furono anche loro sotto la Sub Pop Records e pubblicarono il loro singolo Hunted Down, Nothing to Say, che fu il primo singolo per la Sub Pop, dato che il primo ufficialmente pubblicato era un EP che era dei Green River, che era il primo gruppo di Mark Erm, cantante dei Maddoni. Quindi tutto quanto torna, tutto quanto si mischia, alla fine sono sempre gli stessi a fare i gruppi, quindi non è che... Si chiamavano The Shams e poi però cambiarono il nome dopo aver visto un'installazione artistica di Douglas Hill a Seattle, che era un artista, e praticamente si chiamava Soundgarden, in cui appunto il soffiare del vento produceva dei suoni, soffiare del vento attraverso le installazioni, insomma, produceva dei suoni particolari, quindi questa cosa colpì molto i Soundgarden. La AM Records, che fu una major con il quale dopo la Sub Pop passarono a questa major, la AM Records, che fu fondata nel 1962, attenzione, da un trombettista che si chiamava Herbert, detto Herb Alpert, che è conosciuto in Italia, è un trombettista conosciuto in Italia per la canzone Taste of Honey, che viene utilizzata nella sigla di Tutto il Calcio minuto per minuto. Quindi, non lo so, cioè, mica poca roba, insomma, no? 21 e 58 minuti, è passata la prima ora di Radio Noise, questa è la quarta puntata, primo capitolo dedicato al grangiolo. Perché è chiaro che è impossibile riuscire a racchiudere tutto quanto il grunge in soltanto due ore, un po' di difficoltà di linguistiche, e quindi questo è il primo capitolo dedicato al grunge, periodo importantissimo e fondamentale degli anni 90, perché Radio Noise si occupa soprattutto degli anni 90, perché ci piacciono gli anni 90 a tutti quanti, a tutto lo staff di Radio Noise piacciono gli anni 90 e piace soprattutto il grunge, perché sì, perché è bello, perché ci piace. radionoise@hotmail.it per raggiungere il contatto SMN viene sempre, non capisco perché, tra SMS e MSN, state prendendo per il culo, sì, fate bene, bravi, l'importante è che state qui ad ascoltarmi. Saluto sempre chi è in orizzontale e sta ascoltando da un ospedale con tutti questi vicci, come mi ha scritto prima nell'email, però spero che insomma stia passando questo piccolo momento della giornata in tranquillità e relax. Sempre Soundgarden, sempre AM Records, ma siamo nel 1991, quindi due anni dopo, si cambia totalmente. Qui i Soundgarden diventano famosissimi praticamente. E questo è un gruppo, come hanno scritto loro, sembra di sentire un elicottero. Soundgarden, Jesus Christ Pose. We'll be right back. È interessante come ogni fine pezzo, quasi prima di ogni fine pezzo, sottopassa il treno. Non me ne frega niente, però stavo facendo caso a questa cosa. Soundgarden, questo era Jesus Christ Post da Bad Motor Finger del 1991. Sono sempre sotto AM Records, quindi sempre sotto Major, ma cambiano un poco, diciamo, lo stile rispetto all'album precedente, Ladron del Love, creando delle sonorità un pochino più commerciali. Su Jesus Christ Post, Kim Thayil soprattutto, ma tutti quanti Soundgarden, a parte che è stato scritto, le liriche e tutta quanta la musica è stata scritta da tutti e quattro i membri all'epoca dei Soundgarden, cioè Chris Cornell, Matt Cameron, che poi finì alla fine, dopo lo scioglimento di Soundgarden, e finì a suonare nei Pearl Jam, Ben Shepherd e Kim Thayil, esaltati da questo pezzo, e qui hanno iniziato anche ad abbassare la tonalità, perché il brano è suonato in drop D, cioè viene abbassato soltanto la corda del Mi, la sesta corda del Mi più basso, in una tonalità più bassa, appunto si abbassa di un tono, quindi in Re. Ho avuto un po' di difficoltà a dirlo, però. E quindi si ingrossa di più il suono già abbastanza grosso e imponente di Soundgarden. E Jesus Christ Pose, già dal titolo, insomma, si capisce più o meno di che cosa posso trattare, però non parla appunto delle immagini, diciamo, di Gesù Cristo in generale, dell'iconografia in termini positivi, ma in termini negativi, cioè accusano appunto la società o coloro che utilizzano l'immagine di Gesù Cristo e affini per dichiararsi appunto migliori rispetto a coloro che stanno sotto di loro, in un certo senso, e quindi ritenersi migliori degli altri. E Chris Cornell fu ispirato, diciamo, menzionò in particolare Jane's Addiction, il frontman Perry Farrell, come influenza di questa canzone, spiegando che appunto aveva il fascino della persona appunto perseguitata, in un certo senso, nei modi appunto di fare che aveva Perry Farrell nelle sue esibizioni, nel modo di porsi di fronte agli altri. Adesso invece ci ascoltiamo sempre un brano, cioè sono sempre i Soundgarden, ma non è un brano dei Soundgarden, perché diciamo che si divertivano, i chirichetti del grunge si divertivano a fare anche delle cover, e questa è una signora cover in stile Soundgarden, però che insomma è un piccolo tributo a un gruppo che ha segnato un'epoca importante della storia della musica in generale, che venivano dall'Inghilterra, The Fab Four. Soundgarden, Come Together. Here comes laptop, here comes definito come il Robert Plant degli anni 90, Chris Cornell fa sentire tutta quanta la sua potenza anche in questo brano, questo tributo ai Beatles, agli Scarafaggi con Come Together. Però ha tirato talmente tanto le corde vocali che poi si dovette addirittura operare alle corde vocali, perché effettivamente raggiungeva delle tonalità abbastanza alte e imponenti. 22:15, un'ora e un quarto è passata e quindi in questo caso alle 22:15 arriva il momento degli spot. E quindi vi volevo informare di un appuntamento importante che sarà martedì 18 maggio, sempre alle ore 21, nel programma appunto dentro Radio Noise ci saranno ospitate Le Cose Perse, sono un gruppo punk rock di Roma che si esibiranno anche dal vivo in acustico, perché ancora non siamo riusciti a approntare una sala apposita per poter far suonare in elettrico i gruppi che parteciperanno e che saranno ospiti a questo programma. Quindi non perdete l'appuntamento, playlist scelta da loro, playlist molto italiana, perché comunque Radio Noise si interessa anche dei gruppi underground italiani, perché sono importanti anche i gruppi italiani che comunque hanno... molti hanno molte cose da dire e possono essere quindi paragonati a un sacco di gruppi di oltreoceano. Cambiamo genere, cambiamo stile, cambiamo gruppo e parliamo di un gruppo che è stato preso a calci nel sedere dall'inizio alla fine, perché gli hanno dato addosso tutti questi poveracci che, nonostante non abbiano avuto e non provenissero da Seattle e paesi limitrofi, perché Seattle è la patria, è definita la patria del grunge, dove sono nati un sacco di gruppi solo perché i Nirvana erano di Seattle, quindi allora tutti quanti i gruppi erano di Seattle. Sono stati poverini, cioè mi dispiace, non voglio neanche dire troppe cose negative, perché mi dispiace, poverini, sono tanto bravi, drogatissimo anche lui. Però Stone Temple Pilots, Splash. We'll be right back. gli Stone Temple Pilots, questo è Plush, tratto dall'album Core del 1992. Come dicevo prima, gli Stone Temple Pilots sono stati un gruppo che nati nel periodo grunge, però sono stati trattati malissimo perché sono stati considerati dei truffatori, dei truffaldini, che non c'entravano assolutamente nulla con il grunge e che in realtà si erano infilati soltanto appunto in questo genere semplicemente per raccogliere più soldi possibili e insomma per diventare più famosi e eccetera eccetera. In realtà loro hanno comunque contribuito in un certo senso ad aumentare la popolarità del grunge, sia perché vabbè sono stati sono lanciati diciamo nello stesso periodo in cui esplose il grunge, tant'è che Core, appunto l'album da cui è stata tratta, abbiamo ascoltato Plush, fu pubblicato lo stesso giorno di Dirt, album degli Alice in Chains, album quindi che fa parte della discoteca che non dovrebbe mancare, il disco che non dovrebbe mancare la discoteca di colui che ascolta il grunge e ama il grunge. Forse per questo motivo probabilmente hanno rosicato, anche se effettivamente anche Purple Music uscì, altro album degli Stone Temple Pilots, uscì nello stesso, più o meno nello stesso periodo in cui uscì un altro album, appunto l'omonimo degli Alice in Chains, quindi probabilmente questo dava fastidio, non si sa. Fatto sta che comunque gli Stone Temple Pilots hanno prodotto una serie di dischi importanti e molto molto belli e molto interessanti, tant'è che gli Stone Temple Pilots hanno fatto da gruppo spalla ai Rage Against the Machine, ai Megadeth, tra, per citare alcuni nomi di gruppi importanti, quindi insomma in qualche modo sono stati importanti e sono stati seguiti, quindi diciamo questa avversione continua che c'è sempre stata verso gli Stone Temple Pilots da un certo punto di vista è inspiegabile. Core è stato criticato all'ennesima potenza da tutti quanti critici di in ogni angolo del globo, quindi comunque così è andata così, però hanno continuato sempre nella loro strada, hanno seguito sempre la loro strada e Scott Weiland poi finì anche in un altro gruppo, i Velvet Revolver, che furono fondati da due esponenti importanti dei Guns N' Roses. Beh, così sono alcuni atteggiamenti un po' inspiegabili, diciamo. Sono trattati malissimo dall'inizio. Però, come tanti gruppi grunge, anche gli Stone Temple Pilots, perché poi nacque un periodo in cui era di moda fare dei dischi o dei live unplugged, quindi in acustico, e anche gli Stone Temple Pilots quindi si sono adattati. E questo brano si chiama Pretty Penny, è tratto dall'MTV Unplugged. MTV ha spinto. No one sleeping, gone. Pretty Penny was her name. was her name. She was loving, we all will miss her. Flash, tratto da Purple Music 1994, dicevo, gli Stone Temple Pilots sono stati sempre considerati da molti critici negativamente, però Flash è Purple Music, cioè è il secondo album che bissa il successo precedente di Core, in cui è contenuto appunto il singolo Flash che abbiamo ascoltato prima. Quindi, a detta di molti, in realtà non facevano poi così schifo come molti dicevano, insomma, consideravano questo gruppo. E quest'album Purple è considerato, insieme agli altri di quel periodo, per esempio Jar of Flies o Files degli Alice in Chains, come uno dei più venduti e di successo. E effettivamente così è stato. E in questo album, i singoli estratti di questo album sono per esempio Big Empty, che poi diventerà uno dei brani che verrà inserito quindi nella colonna sonora del film Il Corvo. All'ultimo momento fu inserito anche Big Empty, che tra l'altro nel film compare, quindi tra le scene principali, perché come in ogni colonna sonora ci sono dei brani che vengono messi in risalto di più e dei brani che vengono messi in risalto di meno, e Big Empty è uno di quei brani che viene messo in risalto di più nel film Il Corvo. Quindi questo sempre a contrastare tutte le malelingue e tutti quanti i signori giornalisti che tagliano le gambe a chiunque senza effettivamente riflettere e ascoltare bene e col cuore la musica. Piccola considerazione personale. Passando completamente, adesso torniamo completamente indietro e parliamo seminale dell'epoca grunge, un gruppo grezzissimo che ha ispirato molti gruppi odierni, tra cui Tool, Mastodon, i Crowbar, insomma. Vengono dal lontano 1983, Aberdeen, Seattle. Loro sono i Melvins e questa è Hooch. Melvins, tratto da Houdini, uno degli album fondamentali dei Melvins che li ha portati al successo, è 1993 sotto Atlantic Records, e l'album Houdini fu pubblicato grazie all'aiuto di Kurt Cobain dei Nirvana, che era fan degli stessi Melvins, e probabilmente senza l'aiuto di Kurt Cobain forse i Melvins non avrebbero raggiunto appunto la vetta che hanno raggiunto, quindi non sarebbero diventati poi così famosi, perché hanno sempre deciso, hanno sempre scelto, la scelta è stata sempre quella di rimanere un gruppo in un certo senso di nicchia, quindi non esporsi troppo e non cadere troppo, diciamo, nel commerciale e non finire nel mainstream in un certo senso. E il primo le prime pubblicazioni furono nel 1985 con sotto la CZ Records, che pubblicò una compilation chiamata Deep Six, che poi fu venne pubblicata qualche mese prima della compilation Sub Pop 1000, che appunto fu la compilation della Sub Pop che racchiudeva alcuni tra i gruppi grunge del periodo. E fu anche prodotto Houdini in questo caso, fu prodotto anche da Kurt Cobain, che insomma li aiutò, e all'interno del gruppo in quel periodo, perché comunque i Melvins hanno cambiato vari componenti della band, c'era anche la bassista Lori Black, che era una figlia di Shirley Temple, attrice famosissima americana, la bambina con i riccioli d'oro. Stiamo riascoltando di nuovo Hooch in sottofondo perché ci piace. Invece altro brano tratto da sempre dallo stesso album Houdini, che ripeto, disco molto diverso dagli altri, molto meno duro in un certo senso, molto meno cupo degli altri album dei Melvins, che però è diventato un album fondamentale. I Melvins, come ho detto prima, sono ispirati ai Black Flag fondamentalmente, però hanno ispirato molti gruppi, tra cui Nirvana appunto e Soundgarden, Kurt Cobain che li portò anche in tour agli inizi, insomma, per farli, sia perché era un fan sfegatato, questo ovviamente li aiutò, e influenzarono diversi gruppi, tra cui, come ho detto prima, i Tool, i Mastodon, i Crowbar. Tant'è che questi gruppi hanno poi creato hanno prodotto un disco che si chiama We Reach The Music of Melvins, in cui ogni gruppo appunto ripropone e coverizza i Melvins, fa una cover, segue una cover appunto di un brano dei Melvins. Invece noi, a proposito di cover, ci ascoltiamo un brano che era dei Kiss, ma inserito nell'album Houdini, sempre dai Melvins, e questa è Going Blind. Siamo sempre nel 1993. We'll be right back. fa piacere che cantiate e salta il microfono e un po' di problemi. Salta e quindi cerchiamo di aggiustare qua il microfono. Passiamo al prossimo. Problemi tecnici che ovviamente ci sono sempre in queste situazioni, non possono mancare, però in qualche modo siamo riusciti ad aggiustare la situazione. Quindi abbiamo ascoltato insieme, abbiamo ascoltato i Melvins con Going Blind, che dicevo prima è un brano tratto da sempre Houdini. Cerchiamo di aggiustare qua, intanto abbiamo, spero di aver risolto. Quindi stiamo parlando dei Melvins. Prima abbiamo ascoltato Going Blind, sempre da Houdini, nel 1993, che era un brano in realtà dei appunto, come ho detto prima, dei Kiss, del 1900, tratto dall'album del 1974, Others Than Hell. E qua ovviamente ok, mi comunicano dalla regia. Sì, appunto, prima che saltasse appunto la comunicazione, volevo parlare appunto di Going Blind, che si capisce bene dal testo, che comunque parla della storia d'amore impossibile tra una tra un 39enne e una 16enne. E quindi lo dice: io divento cieco, sto diventando cieco perché insomma in sostanza non ti posso guardare e via dicendo. 39enne. Ah no, 93 è giusto, stavo riflettendo, è un 93enne e non un 39enne, effettivamente 39 e 16 ci potrebbe anche stare, però effettivamente 93enne cioè ci potrebbe stare in termini, diciamo, vabbè, lasciamo perdere, però 93enne e 16enne effettivamente è abbastanza difficile, ci sta, tra un 39enne e un 16enne c'è chi mi risponde, fa piacere che comunque sia in ascolto. Eh sì, ho avuto problemi col microfono, ma spero di aver risolto. E poi abbiamo ascoltato invece un brano dei Meat Puppets, si chiama Backwater. E i Meat Puppets invece sono un gruppo abbastanza particolare, nel senso che loro provengono dalla metà degli anni 80 e hanno avuto una serie di evoluzioni in ambito musicale, evoluzioni che sono passate attraverso i vari dischi che sono stati prodotti. È un gruppo particolare perché si ritiene che i Meat Puppets abbiano in un certo senso rifondato l'hardcore punk, dando una linea differenza, un taglio differente, e vengono anche nominati come gruppo co-punk o southern rock, e quindi vengono definiti anche come un gruppo di punta, un gruppo seminale per quanto riguarda il genere southern rock, e importanti perché hanno portato avanti e diciamo alle luci della ribalta, hanno portato il discorso del sud e della provincia come rivincita appunto al sud della provincia nei confronti delle due grandi città, Los Angeles e New York, che andavano a sfornare gruppi infiniti, di un numero infinito, e continuamente andavano a sfornare gruppi. Fatto questo breve riassunto, noi siamo giunti quasi alla fine della quarta puntata di Radio Noise, per cui non tagliamo la scaletta, ma ci ascoltiamo un pezzo, perché abbiamo parlato fino adesso, abbiamo parlato di grunge, di Nirvana, di Nirvana, di Nirvana, di Nirvana, e quindi ci ascoltiamo un brano tratto da Bleach, che è l'album d'esordio di Nirvana, si chiama Skull, e contrasta completamente il grunge e la sub pop. Quindi pensate un po', gruppo di punta che contrasta, sputa nel piatto in cui mangio. Però sono Nirvana e questa è Skull. Nirvana School, tratto da Bleach, il primo album appunto dei Nirvana del 1989, che è stato registrato, si dice, con $606.17 da Jason Everman, che viene inserito all'interno del disco come secondo chitarrista, ma in realtà non partecipa alla composizione, alla scrittura del disco. Però viene inserito all'interno, per addetta appunto degli stessi Nirvana, per farlo sentire in un certo senso più a casa. Disco scritto in 5 ore, e i testi furono scritti, come leggenda vuole, anche per esempio per Smell Lightning Spirit, singolo di Nevermind, sono stati scritti la notte prima. Smell Lightning Spirit fu stato scritto addirittura la mezz'ora prima di entrare in studio, quindi la leggenda continua ad essere alimentata. Sotto invece state ascoltando Francis Farmer, We Have Air Revenge on Seattle, che è tratto da In Utero del 1993, e qui si vede un altro dei protagonisti fondamentali della scena grunge per quanto riguarda le produzioni, appunto Steve Albini. Allora, mi dicono, perché dalla regia arrivano comunicazioni, quindi intanto ascoltiamo nuovamente da capo, anzi ci ascoltiamo un brano un poco di casino, ci sono un po' di casini, cerchiamo di rattoppare. Allora ascoltiamo invece la moglie di Kurt Cobain, e l'ascoltiamo semplicemente perché è uscito il disco da poco, ma non perché ci piaccia molto, giusto perché era la moglie di Kurt Cobain. All Violet. All the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. We'll be right back. Erano le All con Violet, tratta da Live Through This del 1994, che è stato pubblicato dopo la morte di Kurt Cobain, marito di Courtney Love. E su questo sulle All mi devo pronunciare in maniera insomma. Live Through This è stato pubblicato nel 1994 e è stato un disco scritto interamente da Kurt Cobain, tant'è che con Live Through This le All sono diventate famose, poi però scivolando nuovamente scivolando, no, io rido perché mi commentano, più di una persona mi commenta su le All, giustamente. E quindi insomma, perché insomma ma dei Nirvana parleremo, faremo una monografia su Nirvana e parleremo un po' di tutti e cercheremo di chiarire anche i punti oscuri che riguardano i Nirvana e che aleggiano intorno al gruppo dei Nirvana e al gruppo delle All e alla responsabilità, che sia fondata o meno, di Courtney Love per la morte di Kurt Cobain. Quindi questo lo lasciamo. No, non vi lascio all'ultimo con questa zoccola, mi scrive in particolare una persona. Ma vi lascio con un ultimo brano. Noi abbiamo sforato perché questa sera Out of the Shell, che è il programma che va in onda subito dopo Radio Noise, questa sera non va in onda perché sta preparando la diretta per il sit-in nel Sud Ribelle di Catanzaro, in riferimento al processo relativo ai fatti del G8, quindi roba di un po' di tempo fa, e quindi venerdì sta preparando la diretta. Out of the Shell sta preparando la diretta per venerdì, per cui stasera non andrà in onda, quindi abbiamo sforato qualche minuto, ma comunque siamo in chiusura e quindi avremo modo di parlare dei Nirvana, faremo una puntata, una monografia interamente dedicata ai Nirvana e anche ai brani più sconosciuti, soprattutto ai brani più sconosciuti che hanno prodotto i Nirvana. Andremo a scovare qui e lì all'interno della telematica, andremo a scovare i pezzi più strani che hanno prodotto i Nirvana e parleremo delle All e ci sfogheremo tutti quanti insieme parlando delle All. E ne diremo di tutti i colori. Questa sera va bene così. Questa sera finiamo così. Chiudiamo così. Telematica. Questa sera chiudiamo così. Vogliamo chiudere lasciandovi un dubbio sulle All e su Nirvana. Della telematia neanche la Tauro, ma chi basta. 23:02, quindi chiudiamo ufficialmente la quarta puntata di Radio Noise. Io ringrazio chi è stato in ascolto fino adesso. Chiudiamo ufficialmente il primo capitolo dedicato a al grunge, al genere grunge. Vi ringrazio per essere stati in ascolto. Non vi lascio con l'ultimo brano, non vi lascio con le All, ma vi lascio con un brano che non c'entra assolutamente, ringrazio, sì, che non c'entra assolutamente con il grunge, però mi è piaciuto, volevo mettere questo brano perché vi lascio con queste atmosfere un po' più rilassate dopo che abbiamo sentito gridare gente, sentire distorsioni aggressive, pesanti, brutte, proprio roba che veramente, cioè, farebbero rabbrividire chiunque. Questa gente sporca, schifosa, che non senza arte né parte, tutto quello che volete. Vi lascio con un gruppo che merita, ma veramente merita. Buonanotte a tutti, grazie per essere stati in ascolto, ci vediamo martedì prossimo, sempre alle ore 21, con una playlist che sarà tutto un programma, appunto, un programma Radio Noise, soltanto un angolo di musica e parole. Buonanotte a tutti, grazie di essere stati in ascolto, siete sempre su Transizione di Fase, www.transizionedifase.org, Radio Noise @hotmail.it per aggiungere il contatto MSN, Radio Noise 010 @gmail.com. per scrivere le email e scrivere tutto quello che volete, considerazioni, critiche, dubbi, anche parolacce, tanto le censure. E vi ricordo l'appuntamento di martedì 18 maggio con Le Cose Perse, ma avremo modo nella prossima puntata anche di ricordarvelo. Grazie a tutti, buonanotte. Loro sono i Caius e questa è Space Cadet.